Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Prima di andare ai titoli del nostro sommario, in regia c'è Peter Bescapé, in redazione Laura Vanossi. Siamo pronti per il sommario. La tavola della salute, scegli gli alimenti giusti per stare bene. Novità per il trapianto di cornea. Un cervello ben allenato se la cava meglio. Siamo quello che mangiamo e non è solo un modo di dire, le ricerche hanno chiaramente dimostrato che esiste una relazione strettissima tra dieta e salute, ma anche tra dieta e malattia. Il cibo giusto ci aiuta a far funzionare bene questa magnifica e sofisticata macchina che è il nostro organismo, quello sbagliato la manda in panne. Naturalmente non è tutta e solo colpa del cibo, in molti casi è in gioco tutto lo stile di vita, ma oggi proviamo a ragionare sulla dieta. Andiamo passo a passo, parleremo quindi della funzione protettiva di alcuni cibi, ma anche di quella curativa, degli alimenti da preferire e di quelli da limitare. Lo faremo in compagnia del professor Franco Berrino, che ho l'onore di avere qua in studio con me. Tornato a trovarci, buongiorno professore. Buongiorno. Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Professore, avevamo inventato la dieta mediterranea, quindi cereali abbinati ai legumi, pochi cibi di origine animale giusti in occasioni speciali, verdure in abbondanza, ci avevamo visto lungo e poi a poco abbiamo cambiato idea e dieta, quindi cibi raffinati di origine animale, poche verdure, tanti grassi, insomma una dieta ricca di calorie che presenta un conto molto salato. Esattamente, sì, ma in realtà non è stato a poco, è stato abbastanza in fretta, perché se negli ultimi 2-3 milioni di anni abbiamo mangiato una dieta che per certi aspetti è simile a quella della dieta mediterranea tradizionale, è stato soltanto negli ultimi 50-60 anni, nell'ultimo secolo c'è stato, sì, il grande cambiamento, no? Il grande cambiamento che è stato legato anche alla ricchezza, no? Una volta c'era la fame, oggi non c'è la fame nei nostri paesi, almeno nel mondo sì, ma nei nostri paesi no. E il nostro corpo non è tanto abituato a questa ricchezza alimentare, perché noi siamo stati programmati per sopravvivere ai periodi di carestia, per cui abbiamo dentro proprio il nostro DNA la tendenza, quando c'è da mangiare, no? A mangiare abbondantemente, perché l'anno prossimo potrebbe essere un anno di vacche magre. Magre, no? Certo. Il problema è che la carestia non viene più, no? E allora tendiamo a mangiare troppo, e per di più tendiamo a mangiare troppo di questi cibi iperraffinati, questi cibi industriali che hanno una elevata densità calorica, si dice, no? Ricchi di zucchero e di grassi. No? E questo ha comportato una quantità di danni, cioè ha aiutato lo sviluppo di numerose malattie, che sono le malattie del benessere, vengono chiamate così, del benessere, no? Che sono le malattie di cuore, naturalmente, no? Sono queste dislipidemie, il colesterolo alto, poi la pressione alta, no? Il diabete, e sono molti tumori anche. I diabetici, per esempio, si ammalano di più di vari tipi di tumore. Sono le demenze, no? Questa minaccia terribile che c'è nelle popolazioni occidentali oggi, questa cosa su cui dovremmo veramente riflettere, cioè, per fare in modo da non diventare, se vogliamo bene ai nostri figli, no? Facciamo in modo di non diventare dementi da vecchi, no? Perché gli rovineremo la vita. Noi quindi ci concentreremo sulla dieta, sugli alimenti da preferire. Intanto invito i nostri ascoltatori da casa a chiamarci, il nostro numero verde è già a vostra disposizione, 824 0024, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Professore, ci sono tanti studi oggi a disposizione che hanno chiarito i meccanismi attraverso i quali il cibo influenza la nostra salute, e anche la letteratura scientifica ci permette di andare più nel dettaglio, e quindi per esempio conoscere gli alimenti amici del nostro cervello, della nostra mente, quelli del nostro cuore, quelli più indicati per il benessere del nostro intestino. È logico che una dieta sana fa bene a tutto il nostro organismo, ma io vorrei giocare con lei anche un po' sulle particolarità degli alimenti, e lo faremo viaggiando un po' tra i vari distretti. Ad esempio, lei citava il problema delle demenze. Ci sono dei cibi per la mente e per il cervello? Esistono alimenti protettivi nei confronti delle malattie degenerative? Ma voi sapete che c'era una grande pubblicità, la pubblicità dell'Eridania, no? Ai tempi di Raul Gardini, diceva, no? Lo zucchero fa bene al cervello. Mm. No? Effettivamente il cervello si nutre di zucchero, naturalmente, no? Però c'è una grande ambiguità, no? Perché lo zucchero che fa bene al cervello è lo zucchero che prendiamo dagli alimenti che lo cedono piano piano. Non è lo zucchero, no? Ma sono i cereali, no? In particolare se i cereali sono associati ai legumi, così questo fa... mantiene un certo livello di glicemia nel nostro sangue, per cui il cervello è sempre contento. Se invece mangiamo dei cibi troppo zuccherati, allora la glicemia si alza rapidamente e soprattutto questo, lo zucchero stimola la produzione di insulina e ci manda in ipoglicemia. Quando non c'è zucchero nel sangue, il cervello non funziona bene. È la ragione per cui i bambini, alla fine, che hanno fatto la colazione con le merendine, con queste cose qua, no? Alla fine della mattina a scuola sono nervosi, sono distratti, non possono concentrarsi perché sono in ipoglicemia, poverini. Quindi questa è una cosa che... E comunque questa questione del metabolismo degli zuccheri c'entra anche con le malattie degenerative del cervello, perché è molto ben documentato oggi, per esempio, che i diabetici si ammalano di più di Alzheimer. Quindi la prima cosa per prevenire l'Alzheimer è prevenire il diabete, cioè avere un'alimentazione, no? Certo. Che sia povera di alimenti che aumentano molto la glicemia. E questo vuole dire il pane bianco, vuole dire i dolci di pasticceria, vuole dire le patate che alzano la glicemia molto rapidamente, il riso bianco e così via, e che sia povera anche di grassi saturi, perché i grassi saturi, cioè i grassi di provenienza animale. No? Quelli della carne, del formaggio, ostacolano il buon funzionamento dell'insulina, per cui la glicemia si alza, no? E questo è uno dei meccanismi che favorisce l'Alzheimer, ma ce ne sono altri. Ce ne sono tanti. Mm-hmm. Andiamo all'apparato cardiovascolare, professor Berrino. Quali cibi piacciono al nostro cuore? Quali lo aiutano a mantenersi sano e in grado di funzionare bene? Sapete, nella medicina orientale, no? il cuore è il fuoco, eh? E il gusto che è associato al cuore è l'amaro, no? Per sostenere un cuore un pochettino debole è utile mangiare dei cibi un po' amari, ma soprattutto è utile ridurre i prodotti animali che sono ricchi di grassi saturi, che da un lato aumentano i livelli di colesterolo, del colesterolo cattivo nel sangue, e dall'altro favoriscono anche la pressione alta, no? Per cui per aiutare il cuore dobbiamo controllare questi fattori di rischio, che sono il colesterolo alto, che sono la pressione alta, che sono i trigliceridi alti, che sono la glicemia alta, anche perché i diabetici si ammalano molto più di cuore, eh? E questo è il quadro. E se vuole, stiamo descrivendo quello che mangia la gente tutti i giorni. Certo, insomma. È vero, le dicevo proprio questo. Sento, dal cuore passerei all'intestino, che è il tallone di Achille per molte persone. E per accontentarlo, per non fargli fare i capricci, molte persone si mettono a dieta. Ma prima di fare dei sacrifici inutili, vorrei capire da lei: ci sono dei cibi che gli piacciono, che gli fanno bene? Oh, sì, certamente. No? Sapete, nel nostro intestino vive un esercito di 100.000 miliardi di microbi, no? Che lavorano per noi e qualche volta anche contro di noi. E se a conto di quello che noi mangiamo, questi microbi sono di un tipo o di un altro, ci sono numerosissime specie di microbi diversi, no? Quindi la cosa importante è aiutare, mangiare quelle cose che piacciono ai microbi buoni. Sì. Ai microbi che ci proteggono dall'infiammazione. Noi parteggiamo per loro. Parteggiamo per loro, no? Che sono per esempio i bifidobatteri, ma anche i lattobacilli. Adesso c'è molta... l'industria mette i bifidobatteri e i lattobacilli dappertutto, nei biscotti piuttosto che nello yogurt. Però anche se mangiamo questi bifidobatteri, ma se loro poi non trovano il cibo buono per loro, no? Che sono delle fibre particolari, sono dei polimeri del fruttosio che si trovano in alcuni alimenti in grande quantità e in altri in moderata quantità, ma fondamentalmente si trovano nelle verdure. No, si trovano nelle verdure. Quindi mangiando le verdure noi aiutiamo, no? E poi ci sono delle verdure che ne contengono tantissimi, no? Di cui parleremo, ad esempio, professore? Per esempio i topinambur ne contengono tantissimi, no? Ma anche i porri, le cipolle ne contengono, i carciofi, In primavera c'è il tarassaco, in particolare la radice del tarassaco, che è l'erba amata dei prati, no? Sì. Il pissanlì, no? Sì. E questi sono nel cambio di stagione, in autunno vengono i topinambur, però bisogna stare attenti, perché se non ci sono i bifidobatteri nell'intestino, se uno mangia un piatto di topinambur, no? Questo fermenta, ti gonfia la pancia, insomma, no? Finisce al pronto soccorso con una... per cui bisogna introdurli, se uno non è abituato a un'alimentazione prevalentemente carne, allora in questo caso prevalgono i batteri della putrefazione della carne, no? E quelli che danno, cioè, la puzza della cacca di un vegetariano è molto tollerabile rispetto alla puzza della cacca di un carnivoro, insomma. 824 0024 con il professor Berrino. Parleremo naturalmente anche di gran parte dei suoi studi, sono concentrate sulla relazione tra dieta e tumore, non solo per individuare gli alimenti protettivi, ma anche per studiare una dieta capace di ridurre le recidive nelle persone che hanno avuto un tumore. Quindi parleremo di dieta anticancro e di dieta dopo il cancro. 824 0024, arrivano già tantissimi messaggi al 349-238-6666. Vi aspettiamo. Una mela al giorno. Parliamo ora di una nuova tecnica che viene utilizzata nel trapianto di cornea. È una piccola grande rivoluzione per la risoluzione di patologie che interessano circa il 50% dei pazienti, ai quali viene garantito un innesto più sicuro e, non meno importante, un recupero più rapido. Ne parliamo oggi con il dottor Diego Ponzin, direttore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, che ha collaborato attivamente a questa tecnica. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Dottore, per capire la portata di questa nuova tecnica, credo sia importante fare un passo indietro e iniziare a parlare del trapianto di cornea tradizionale. Certamente, guardi, la cornea è il tessuto che costituisce la porzione più anteriore dell'occhio e che può andare incontro ad alterazioni, diciamo, di tipo congenito oppure alterazioni di tipo acquisito, quindi conseguenza di gravi infezioni o gravi traumi. Il trapianto di cornea tradizionale consiste nella sostituzione del tessuto in tutto il suo spessore, quindi tutti gli strati corneali, dal più esterno al più interno, vengono sostituiti. Una prima innovazione significativa si era verificata qualche anno fa, quando si erano messe a punto delle tecniche che consentivano, per esempio, la sostituzione solo degli strati più esterni del tessuto. Quindi la cheratoplastica, cioè il trapianto, era passato da perforante anche a cheratoplastica lamellare. Infatti, dottore, questi sono i due termini tecnici con cui vengono definiti due tipi di trapianto. Uno negli strati più superficiali e invece l'altro che in toto. Perché noi possiamo immaginarci la cornea come una cipolla a strati? Certo, la cornea, diciamo, a voler semplificare, è costituita da 5 strati. Il trapianto perforante consiste nella sostituzione del tessuto in tutto il suo spessore, quindi tutti gli strati, compreso anche lo strato interno. Il trapianto lamellare anteriore, che era l'unico disponibile fino a qualche anno fa, consiste nella sostituzione degli strati più anteriori, quindi più superficiali. Quindi si è andati verso un trapianto più selettivo. Infatti, dal trapianto di corno in toto si è passato a un trapianto che interessasse solo gli strati più superficiali della cornea. Ma dottor Ponzin, come lei ci ha spiegato, la cornea è anche degli strati dietro, posteriori. Anche questi possono essere colpiti da alcune malattie. E il trapianto selettivo mira proprio a sostituire, questa è la novità di questa tecnica, solo quegli strati. Quindi per quali pazienti? Esiste una popolazione di pazienti che per lo più non sono pazienti giovanissimi, possono essere pazienti di età intermedia oppure pazienti anziani, che hanno la perdita della trasparenza corneale per problemi relativi a solo allo strato più profondo della cornea, che è uno strato di cellule, diciamo così, molto delicate, che una volta perdute non si rigenerano più e che hanno complessivamente uno spessore di 20 micron, cioè 20 millesimi di millimetro. Dottore, la novità dell'intervento sta nella semplicità con cui è possibile separare la membrana da trapiantare, vero? Esatto, la novità è stata quella di mettere a punto una tecnica, diciamo, relativamente semplice, perché richiede comunque un'esperienza chirurgica piuttosto buona, ma è una tecnica relativamente semplice e molto riproducibile, che permette di isolare nella cornea del donatore e mantenere questa membrana, diciamo, di 20 millesimi di millimetro con queste cellule molto delicate. E poi innestare questa membrana nella cornea malata, lasciando inalterate le strutture più superficiali della cornea. Quindi in questo modo il paziente subisce un intervento molto meno invasivo, perché tutta la superficie del suo occhio non viene aperta, non viene toccata, rimane la sua. In questo modo anche i rischi di rigetto, che già sono abbastanza contenuti con il trapianto di cornea, diventano ulteriormente ridotti e i tempi di recupero sono molto più veloci. Dottore, per il momento la saluto e le auguro una buona giornata. Complimenti. Grazie. Allora. Grazie, buona giornata a voi, arrivederci. Pronto soccorso. La tavola della salute, riprendiamo il tema di oggi che vuole essere un'occasione per capire in che modo la dieta, o meglio il nostro stile alimentare, influenza il nostro benessere, in positivo e in negativo. In studio con noi, con me, ma è quindi a vostra disposizione, abbiamo il professor Berrino, a cui potete rivolgere le vostre domande all'824 0024 o i vostri messaggi al 349 238 6666. Professore, Luisa da Roma ci scrive: per la colite, l'infiammazione del colon, che dieta fare? La verdura infiamma? Ah, è molto interessante, perché questo è un campo in cui noi medici siamo un po' confusi, no? Nel senso che, siccome quando c'è una colite in atto, mandare delle fibre, le fibre irritano meccanicamente, no? E possono peggiorare la sintomatologia, spesso noi medici diciamo: beh, mangiamo gli alimenti senza fibre, cioè il formaggio, la carne, no? Sì. Però questo è un problema, perché in realtà il formaggio e la carne infiammano, no? Proprio perché nella putrefazione delle proteine animali, che sono ricche di zolfo, si forma idrogeno solforato, che è molto tossico per la mucosa. Quindi bisogna mangiare del cibo vegetale, ma senza fibre, finché c'è l'infiammazione. No? Sì. Per esempio mangiare delle creme di cereali, dei passati di verdura, no? E questi sono molto ben tollerati dall'intestino, in particolare se vengono masticati bene per cominciare la digestione in bocca. E questo guarisce la colite. Il passato, non la verdura. Il passato, certamente, ma in particolare il passato di cereali integrali. La crema di riso integrale è il toccasana per l'intestino, però togliendo le fibre, certo. passandole, no? Certo. Poi quando, non appena la colite è guarita, no? Allora le fibre non infiammano affatto, anzi le fibre rafforzano il buon funzionamento dell'intestino, no? Quindi le fibre non sono infiammanti, possono essere negative quando c'è un'infiammazione in atto, perché certo, sono meccanicamente irritanti, no? Però noi abbiamo molte esperienze con le coliti nei pazienti in chemioterapia. Mm-hmm. E poi ci occupiamo anche di colite ulcerosa. La colite ulcerosa, no, ha dei benefici meravigliosi della crema di riso. Quindi, professore, noi stiamo capendo che oltre al tipo di alimento è anche il modo in cui viene preparato. Lei citava, certo, il passato, e invece un altro conto è invece mangiare la, certo, minestra di cereali. Esattamente. No, perché le fibre fanno molto bene per l'intestino, ma non quanto è infiammato. Certo. Andiamo a Pordenone. Ci aspetta Umbretta, bellissimo nome, all'824 0024 per una domanda. Umbretta, benvenuta. Buongiorno e grazie per avermi richiamato. Io non ho un problema, ma mio figlio è vegetariano, da un anno è vegetariano, è studente, vive da solo a Padova. Sì. Per cui il mio problema è: non mangia, sì, né carne né pesce. È chiarissimo. Però i derivati sì, formaggio, no, uova, mangia. Ah sì, ma allora non si preoccupi assolutamente, signora. Cioè, se lui comunque qualche cibo animale lo mangia, no, non avrà problemi. L'unico problema del vegetariano è se non mangia nessun cibo animale, può andare in carenza di vitamina B12. No? La vitamina B12 è uno dei pochissimi alimenti che possiamo prendere solo dagli animali. No? L'altro è il colesterolo, ma quello non ce ne frega niente, perché lo possiamo fare noi. No? Sì. Per cui se lui mangia un po' di uova non c'è assolutamente nessun problema. È bene comunque che questo vegetariano sia un vegetariano intelligente, no? Cioè, la Coca-Cola è completamente vegetariana, lo zucchero è vegetariano, però non sono alimenti che fanno bene. Allora, professore, abbiamo tante volte il nostro organismo viene paragonato ad una macchina. La macchina, per funzionare, ha bisogno del carburante e di quello adatto. Noi abbiamo bisogno di mangiare per vivere, su questo non ci piove, non sempre però mettiamo la benzina giusta, o nella quantità o nella qualità. Bene, gli errori però li paghiamo nel breve e nel lungo periodo. Nel breve, se mettiamo più benzina di quello che è necessaria, ingrassiamo. Ecco, e non è, l'abbiamo capito, solo un problema estetico. Però il richiamo dei medici di non aumentare di peso, tante volte lo sentiamo talmente ripetere che quasi ci abbiamo fatto l'abitudine e non vogliamo, certo, insomma, il grasso addominale, la circonferenza, il rapporto di massa corporea. Ecco. perché è così dannoso per la nostra salute? Sappiamo che i parametri poi mutano. Una persona sovrappeso è una persona sovente che ha la pressione più alta, ad esempio. La pressione più alta, la glicemia più alta, i grassi nel sangue che non vanno bene, no? E soprattutto ha uno stato infiammatorio maggiore. La presenza di grasso, soprattutto del grasso addominale, no, induce uno stato infiammatorio. Questo favorisce parecchie patologie, ma anche i tumori, no? Perché queste sostanze dell'infiammazione, l'infiammazione è una difesa dell'organismo, se vogliamo, no? Però le sostanze dell'infiammazione stimolano anche dei processi riparativi dei tessuti, no? E questi processi riparativi però possono stimolare anche la crescita dei tumori. Quindi no, bisogna mantenersi snelli. Bisogna mantenersi snelli, e questo noi sappiamo che non bisogna ingrassare, perché poi dimagrire è dura. È più difficile dimagrire, ma si può anche dimagrire, no? Poi naturalmente ci sono un sacco di persone che ci hanno provato, sono dimagrite, poi sono ringrassate, hanno fatto tutte le possibili diavolerie del mondo di diete, sì. No? Quello che noi suggeriamo per dimagrire è quello di non mettersi a contare le calorie, perché uno le conta per un po', poi si stufa, no? Giustamente. Non mettersi a fare la fame. La gente deve riempirsi la pancia, no? Perché altrimenti non ci sta. E allora noi diciamo: mangiamo dei cibi diversi, mangiamo dei cibi che siano molto sazianti, che contengano tutte le sostanze di cui abbiamo bisogno, ma che abbiano poche calorie. E ci sono. E quali sono questi cibi? No? Sono i cibi Lei ha iniziato parlando della dieta mediterranea di una volta, sono i cereali, ma integrali, non la farina 00, non il nostro pane bianco, no? Ma il pane integrale, no? Il riso integrale, l'orzo, il miglio, il grano saraceno, tutti questi alimenti, assieme a un po' di legumi, per esempio, no? I legumi hanno questa meravigliosa proprietà di rallentare la velocità di assorbimento dello zucchero, no? E quindi non ci manda in ipoglicemia. Se noi andiamo in ipoglicemia ci viene fame di zuccheri, no? Dobbiamo togliere, certo, tutte le cose, no? Più zucchero si mangia, più viene fame di zucchero, no? Quindi mangiando così si può riempire la pancia, quindi soddisfare il nostro bisogno che è fisiologico, è naturale, di essere sazi. Tutti dimagriscono se li mettiamo in prigione e non gli diamo da mangiare, ma appena, certo, escono ringrassano, no? Per cui quando escono è bene che si mettano a mangiare. Quando escono. Sono le 11.35, non è l'ora, ma noi ci sediamo ugualmente a tavola. Oggi parliamo di alimentazione, in studio con me il professor Franco Berrino, che è direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori. Professor Berrino, la dieta ha bisogno di tempo nel bene e nel male per darci degli effetti? Certamente sì, non è che possiamo pensare che se mangiamo soltanto bene soltanto una volta o per un breve periodo di tempo. Magari certe malattie acute si risolvono anche in brevissimo tempo, sì, no? Però la cosa importante è non riammalarsi di nuovo. Se uno ritorna a mangiare come prima, no, finirà di riammalarsi, no? Certo. In particolare le malattie infiammatorie con la dieta si risolvono molto, molto facilmente. Però quindi, si tratta se me li nanno. Ah beh, no, semi nanno va benissimo. Cioè noi non abbiamo nessun alimento proibito, no? Bene. Ma tantissimi alimenti proibiti tutti i giorni, no? Certo. Invece alcuni consigliati da consumare, se non tutti i giorni, con regolarità. Allora abbiamo intanto Maria che ci chiama da Roma. Maria, buongiorno. Buongiorno. Vorrei fare una domanda al professore. Sì. E se conosce la dieta zona e che cosa ne pensa? Certo, no, la dieta zona è una dieta che ha una base molto intelligente ed è molto simile al ragionamento che facciamo noi. È una dieta che ha l'obiettivo di tenere bassa l'insulina nel sangue, e questo ha un sacco di vantaggi, no? Sì. In particolare per dimagrire. Il problema è che per tenere bassa l'insulina questa dieta riduce moltissimo i carboidrati e aumenta le proteine, no? Allora è una dieta che va molto bene dove è stata inventata, no? Se vivessimo nel Nebraska, dove ci sono tantissime mucche, dove nei supermercati non si trova nessun cereale integrale, no? È forse bene fare la dieta, sì, zona. Da noi possiamo invece, noi siamo riusciti nei nostri studi a ridurre i livelli di insulina aumentando i carboidrati, ma aumentando i carboidrati sotto forma di cereali integrali, di legumi, no? Ed evitando invece gli zuccheri, no? Per cui va bene se uno vuole farla per un breve periodo, se gli piace, no? Però noi consigliamo di abbassare l'insulina attraverso un'altra strada. Arrivano diversi messaggi, ho familiarità con il tumore del colon e ho 45 anni. Quale dovrebbe essere la mia dieta prevalente? Ci scrive Stefano da Verona dicendoci che è alto 1,84 e peso 85 kg. Va bene, 1,84 e 85 kg può anche andare bene, però io direi che comunque un po' meno andrebbe meglio, guardi un pochettino se ha un po' di pancetta. Allora, se ha familiarità, no, c'è già un rischio più elevato, per cui tanto vale fare il possibile per togliere gli altri rischi. E allora i rischi legati all'ambiente, all'alimentazione per i tumori dell'intestino sono fondamentalmente quello di essere sovrappeso, di non fare attività fisica e di mangiare in abbondanza carni rosse e carni conservate, no? Quindi direi, una persona così direi, elimini le carni, no? In particolare le carni rosse, elimini completamente i salumi, no? Non è una garanzia, no? Però lei in questo modo ridurrà il suo rischio e mangi dei cibi integrali in modo da avere le fibre. Professore, se uno soffre, ci scrive Michele, di colite e stitichezza allo stesso tempo, cosa deve mangiare? Beh, se uno soffre di colite e stitichezza allo stesso tempo vuol dire che mangia da schifo. Scusate, mi scusi, sì. Mi permetto di fare questa battuta così, ma non è con tutto il rispetto per il suo problema. Bisogna riportare l'alimentazione ad un equilibrio, no? Ad un equilibrio che... evitando i cibi estremi. I cibi estremi sono i cibi... Chiamiamoli per nome. Allora, li definisco secondo la filosofia orientale. I cibi troppo yin o i cibi troppo yang. I cibi troppo yin sono i cibi troppo espansivi, sono lo zucchero. Lei elimini, sì, completamente lo zucchero, no? Sono gli oli, riduca gli oli nella sua dieta, no? I cibi troppo yang sono le carni, sono i formaggi stagionati, sono i cibi salati conservati sotto sale. Queste sono le cose da togliere assolutamente, no? E riportarsi invece, no? Nell'equilibrio. Stare attenti alla frutta, perché la frutta non è amica dell'intestino, fa gonfiare, no? Può causare infiammazione e così via, no? Riportarsi nell'equilibrio vuole dire centrare sui cereali, su un pochettino di legumi magari decorticati, cioè usare le lenticchie rosse per esempio, oppure i passati di legumi in modo da togliere la buccia, no? Sì. E le verdure, no? Le verdure cotte in particolare. Andiamo da Francesca che ci chiama da Roma. Francesca, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, se volevo fare una domanda al professore, io ho il colesterolo normale, basso, però ho il colesterolo buono, l'LDL è bassissimo. No, no, l'HDL è bassissimo. Sì, l'HDL è bassissimo, quello 40, buono. 35. Vuoi sapere se era una dieta, pure mio marito uguale, forse facciamo la dieta sbagliata. Forse fate la dieta sbagliata, lo chiediamo al professor Berrini. Colesterolo buono, basso, certo, non va bene, cosa si fa? Quando il colesterolo buono è sotto i valori di 50, no, ci preoccupiamo un pochettino, perché sapete, il colesterolo cattivo, potete immaginarlo come una barca che viaggia nel nostro sangue e che spalma i grassi sulle arterie. Il colesterolo buono è una barca invece che va in giro a raccogliere i grassi delle arterie e portarseli via. E l'importante è il rapporto fra i due colesteroli, no? Sì. Per cui cerchiamo di abbassare il colesterolo in totale, e che va bene comunque, così si abbassa quello cattivo e allora anche se c'è poco di quello buono ce la facciamo. E per abbassare il colesterolo bisogna togliere i formaggi e le carni rosse, fondamentalmente i salumi. Non è che ci siano dei cibi proprio di dimostrata attività per aumentare il colesterolo buono. Serve molto l'attività fisica, no? Quindi quello e che... questo è un po' il tasto dolens, certo, no? Quando dobbiamo muoverci preferiamo ridurre un alimento o toglierlo del tutto piuttosto che fare qualche passo in più. Esattamente, no? Quindi spostarsi verso una dieta equilibrata, un po' come quella che raccomandavo prima, senza gli estremi, no? E fare attività fisica, no? E ogni tanto magari anche, ma con moderazione, un bicchiere di vino rosso poi può servire. Andiamo da Emanuela che ci chiama da Modena. Emanuela, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, benvenuta, benvenuti a voi e grazie per poter avere questa opportunità. Volevo chiedere al professore una precisazione, volevo avere un'indicazione. Mio papà è affetto da prostata, ha 78 anni, si sta curando, ha iniziato un ciclo di chemio. Volevo sapere se ci sono degli alimenti preferenziali, insomma, per poter aiutare questa cura che ha iniziato, insomma. Certo. Per il tumore alla prostata, dopo il tumore alla prostata, professor Perrino. Ma guardi, i risultati purtroppo degli studi sui tumori della prostata sono molto contraddittori, quindi non ci sentiamo di dare delle raccomandazioni precise. Ci sono però due studi molto recenti, molto interessanti, proprio fatti con pazienti che avevano un tumore della prostata molto iniziale, no? E che si è visto un grosso beneficio del consumo di tè verde, no? Per prevenire la il passaggio di questi tumori poco aggressivi verso delle forme più aggressive. E si è visto anche un beneficio della dieta vegana, cioè della dieta che elimina completamente i prodotti animali. La cosa principale comunque che io raccomanderei è di togliere completamente i latticini, no? Proprio perché il rapporto fra i latticini e i tumori è molto dubbio, molto discusso, ma per la prostata c'è un'indicazione chiara che chi mangia più latticini si ammala di più, no? E sospettiamo che questo sia perché il latte, essendo un alimento per far crescere, no? Fa aumentare i fattori di crescita nel sangue, no? E quindi può stimolare la crescita di alcuni tumori. Professor Berrino, dieta e tumore. Ma arrivano molte domande. Tra l'altro, a proposito, c'è un libro che è da poco uscito in Italia che racconta la storia di un neuroscienziato, grande studioso del cervello, che un giorno si trova improvvisamente a combattere in prima persona il nemico che aveva studiato in laboratorio. Si ammala di un tumore al cervello. La sua battaglia contro il tumore è diventata un libro che io vi consiglio. Si intitola Anticancro, prevenire e combattere il tumore con le nostre difese naturali. L'autore è David Servan Schreiber. Noi lo abbiamo raggiunto e abbiamo riportato la sua intervista sul nostro sito, quindi potete andare nell'home page di Essere Benessere, la ritrovate. Il titolo è Anticancro, prevenire e combattere il tumore. Tra l'altro, professore, lei conosce personalmente questo autore? Certamente, anzi raccomando senz'altro di leggere questo libro. C'è una bellissima frase iniziale dove lui dice: questo è il libro che io avrei voluto avere quando mi sono ammalato di cancro, no? E io lo consiglio senz'altro ai malati. E andiamo a Renzo, che ci chiama da Macerata. Buongiorno Renzo. Buongiorno a voi, buongiorno professore, buongiorno. Volevo porre questa domanda. Nefrectomia radicale nel 2000, funzionalità renale per il residuo praticamente normale, clearance della creatinina, valori ai limiti del massimo. Sì. Ecco, quale può essere una dieta, diciamo così, per preservare al meglio, diciamo, certo, il residuo. Ma guardi, per tutti i problemi renali e in particolare per aiutare il rene a funzionare bene, no? C'è una raccomandazione importantissima che viene dalla medicina dell'Estremo Oriente, no? di privilegiare alcuni alimenti che proprio sono adeguati ad aiutare il rene, no? Fra questi c'è per esempio il grano saraceno, no? Il grano saraceno, adesso che viene l'inverno, no? È una cosa bellissima mangiare la polenta di grano saraceno. Naturalmente stiamo attenti a quanto burro e formaggio e salamini aggiungiamo. Non c'è bisogno di mettere burro e formaggio. E poi c'è la soba, che sono gli spaghetti di grano saraceno, no? Che peraltro è una cosa comodissima da fare, si preparano in 5 minuti, no? Ed è molto bene mangiarli con dei legumi particolari, che sono i legumi azuki, sono dei piccoli fagioli rossi, sì, no? La cosiddetta soia rossa, no? Sì. E lei utilizzi con una certa regolarità questi alimenti, vedrà che ne avrà un beneficio. Abbiamo Elena da Pavia. Elena, buongiorno. E professore, buongiorno Elena. Buongiorno. Buongiorno. E poi professore, io prima di chiudere vorrei parlare del progetto Diana. Certo. Ne abbiamo già parlato a Radio 24. Elena, intanto la sua domanda. Ecco, la mia domanda è questa. Io ho un linfoma e adesso sto facendo la chemioterapia. Sì. Poiché ho i globuli bianchi spesso molto bassi e sono anche un po' anemica, ho l'emoglobina intorno al 10,4, 10,3. Sì. Tutti ora mi consigliano di mangiare della carne rossa. Io però fino ad ora non sono stata abituata a mangiare carne rossa, ho sempre mangiato la carne bianca. No, grazie capisco Elena. Capisco benissimo il problema, perché è una cosa molto comune, no? Noi medici, che ormai non studiamo più alimentazione a scuola, no? Abbiamo questa tendenza a dire, no? se mancano i globuli rossi bisogna mangiare carne, no? No? E in realtà non c'è una prova che questo serve. Noi abbiamo appena finito uno studio con pazienti in chemioterapia. Abbiamo visto che perché togliendo completamente i prodotti animali non si è danneggiato minimamente, anzi è migliorato addirittura un po' il livello di globuli rossi, per cui non si preoccupi, se non se la sente non si sforzi. Professore, abbiamo, prima di salutare, due minuti perché poi c'è una notizia che vorrei darvi che riguarda proprio le demenze e l'istruzione. Vorrei parlare con lei del progetto Diana. Certo. Quindi uno studio che analizza, va a cercare la dieta migliore, la dieta più indicata per donne affette da tumore al seno e con un certo tipo di alimentazione si dovrebbero evitare e limitare le recidive, giusto? Esattamente, questo è l'obiettivo, è di vedere se riusciamo a ridurre le recidive. Abbiamo parecchi indizi che questo potrebbe succedere, ma non abbiamo la prova clinica proprio. E per questo abbiamo bisogno di un gran numero di collaboratrici a questo studio. Cioè lanciamo un appello, l'abbiamo già fatto ma lo rinnoviamo, certo, professore. Di signore che si sono ammalate negli ultimi 5 anni, che stanno bene, che non hanno avuto delle riprese di malattia, e di età compresa fra i 35 e i 70 anni, e che siano disponibili, no, a venire presso la nostra unità. Ma lo studio si fa a Milano, ma anche a Torino, anche a Palermo, anche All'Aquila. A Napoli, no, all'Aquila e a Potenza per ora. Quindi che siano disponibili di venire una o due volte al mese per seguire corsi di cucina, per vedere, anche per avere delle istruzioni per fare attività fisica, no? Chi fosse interessata, no, può telefonare al progetto, che sì, è lo 02, no, 23 90 28 68, 02 23 90 28 68, oppure può andare sul sito internet dell'Istituto dei Tumori di Milano, dove ci sono tutte le indicazioni del progetto Diana. Certo, insomma, noi naturalmente rimaniamo a disposizione, potete inviarci una mail a essere benessere@radio24.it se la cosa vi venisse più semplice. Certo, e noi la trasmettete. E noi la trasmettiamo all'equipe del professor Berrino, che ringrazio davvero per essere stato con noi. Dovremo continuare a parlare di alimentazione. Professore, devi tornare, perché ci sono tantissimi messaggi, ogni alimento è stato nominato e citato in un SMS e quindi ancora tante domande a rispondere. Professore, per il momento la ringrazio, la salute, è stato davvero un piacere. Quando volete sono disponibile. Grazie. E prima di salutarvi parliamo di istruzione, un argomento caldo in questi giorni che è anche oggetto di uno studio multicentrico coordinato dal San Raffaele di Milano e pubblicato su una rivista scientifica internazionale che si chiama Neurology. Bene, secondo questa ricerca le persone con un livello di istruzione elevato oppure un'attività occupazionale intellettualmente intensa manifestano i sintomi di demenza più tardi rispetto a chi è poco istruito o svolge un lavoro intellettualmente poco stimolante. Insomma, l'istruzione insieme al modo in cui teniamo occupato e allenato il nostro cervello fanno la differenza. Come mai? Ne parliamo oggi con la professoressa Daniela Perani, coordinatrice dello studio, neurologa ed esperta di neuroimmagini dell'Università Vita Salute San Raffaele e dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano. Professoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Noi abbiamo studiato un gran numero di pazienti con malattie di Alzheimer, perché uno studio multicentrico europeo ci ha permesso quindi di valutare numerosi pazienti. Non solo, abbiamo anche studiato dei soggetti che presentavano un disturbo di memoria lieve, quindi persone assolutamente non dementi e non malate. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato una tecnica di imaging avanzata, la PET, che studia il metabolismo del glucosio. Il metabolismo del glucosio è un parametro funzionale del cervello che si altera in caso di malattia, come l'Alzheimer. Ma tutto questo cosa significa rispetto a istruzione e occupazione? Con l'istruzione e l'occupazione noi sappiamo costruiamo una riserva funzionale del nostro cervello, cioè un maggior numero di sinapsi, una miglior connettività. Se il cervello si ammala e possiede una grande riserva funzionale, può usarla per parecchio tempo prima di manifestare i sintomi inesorabili della malattia. Se tutta la vita il nostro cervello è stato in esercizio, ha avuto un'istruzione adeguata e costruito, diciamo, intellettualmente di più, bene, questa riserva che esiste quindi nel cervello di queste persone ha frenato, diciamo così, l'insorgenza dei sintomi cognitivi. Allora, professoressa, per ritardare i sintomi della demenza occorre correre, studiare di più e soprattutto tenere allenato il nostro cervello. E questo è il messaggio che arriva dalla vostra ricerca. Certo, questo è una cosa che la società dovrà sempre più considerare, visto che siamo una società che invecchia e le malattie degenerative, finché non scopriamo il modo di curarle o di frenarle o di impedirle, un modo per sicuramente rallentarle è quello di avere una buona riserva funzionale. Quindi lettura, ascolto, questo in qualche modo ci preserva. Ci rallenta l'insorgenza dei sintomi cognitivi. Grazie allora, professoressa Perani, per essere stata con noi. Grazie, arrivederci. E buona giornata a chi ha ascoltato Essere Benessere. Come sempre l'appuntamento torna domani dopo le 11. Vi aspetto, un saluto da Nicoletta Carbone.